ferito e che m'è tenta a te. Così offeso, signor, dunque tu sei. Cesare, a tua vendetta, tento l'indegno. Ma Cesare, ne prima scolpa, io qui ne venni chiamato sol dalla mia fe, che volle vendicare tuo franco. Io saprò dirti l'infamia del suo cuore. Signor, te prego, prima sentir da me l'ingiurie tue. Parlò, che sarà mai? Che odilla l'infedele, che in questo istante amoreggia, indegno stiglio e vidi, quante carezze, quante, che infine a lei pur. Perciò tentai, per tuo onor, per mia gloria, svenarli al piede avanti il suo vago guardone. Immobile sono. Oh, quanto vil di Roma è fatto il trono! All'ardi, all'ire, al pianto. Tacili, prudenta, scordi, e del più caio la tua grandura, e l'invinca del cui svela. Obbedienza, e l'alma infine ripiega. Prima Augusto m'ascolti, e poi contenta io morirò. Ti fermo, sentir voce di scolpe, e poi che mola. Di scusare il mio ruolo, pur spero ancora. Notte rona, ed alma in petto duce, sovrano, non è colpa in che mio libro. Io nel mio seno servo de fede sull'alto splendore, e caio sull'infido il traditore. Ah, Cesare, qui vive qual'uomo carezzò l'amante tua. Io sono un infelice che un traditor crudele siego chi mi lasciò. E pretendo che vendicato il torto mio pur sia. Vedi, se sol pietà, merto e perdono, già che ostiglio rompì, ma toglia io sono. Quale stravaganza è questa? Ciel che vengo! Oh, quanto impensato è il destino! Contro la pizia assurde, al mio scampo fedel, apre le porte. Dunque, se tu gli sei, alza, e di Caio consorte io vo che sì. E se pria ti stimo forse infedele, ma conosca il suo error. Ma come o donna nulla ridir, che in vil manto scosa tu gli si stava. Intanto l'accarezzai, la strinsi, sol perché donna l'era. Ma miglior vera, già l'error mio mi fa tornar ben pieno. Offesi, e cerco perdon di quanto prai. Ah, se frangio pensier, tu ben vedrai. Oh, strano evento, ho inopinato giorno. Ah,